prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Abbiamo da poco ricordato le oltre 300 vittime del terremoto dell'Aquila 4 anni fa, un anno fa anche alcune vittime, non così tante, ma un sisma che ha lasciato il segno anche tra Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Abbiamo già parlato in altre occasioni degli interventi del Caritas, anche del Triveneto, a favore delle popolazioni terremotate. Bene, per quanto riguarda il terremoto più recente, quello del maggio 2012, la scorsa domenica 7 aprile sono stati consegnati, è stato inaugurato il terzo centro nell'arcidiocesi di Modena Nonantola a Gallo di Poggio Renatico. Alla realizzazione di questo centro hanno contribuito le Caritas della Liguria e della Sardegna. Ricordiamo le parole che Papa Benedetto XVI aveva pronunciato in occasione della sua visita pochi giorni dal sisma. La Chiesa vi è vicina e vi sarà vicina con la sua preghiera e con l'aiuto concreto, in particolare della Caritas. 3 milioni di euro quelli stanziati dalla CEI nella prima fase di emergenza per dare risposte ai bisogni immediati, attivando significative esperienze di gemellaggi, e molti sono in atto anche con le Caritas diocesane del nostro territorio, sia a livello diocesano che a livello di parrocchia o di vicariato. Sempre in questo mese di aprile è prevista poi l'inaugurazione di altri 5 centri, 3 nell'arcidiocesi di Modena Nonantola, domenica 21 aprile a Cavezzo e a San Prospero, domenica 28 aprile a Solara, 2 nella diocesi di Carpi, venerdì 26 a Fossa di Concordia e a Budrione. A seguire saranno consegnati gli altri centri che sono in fase di completamento nella diocesi di Carpi, nella diocesi di Adria Rovigo, che per il Veneto è stata quella colpita appunto dal sisma, e nella diocesi di Ferrara Comacchio. Sul sito caritasitaliana.it trovate anche i dettagli, le schede descrittive di questi centri che sono stati realizzati appunto a favore delle comunità colpite dal sisma. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Si avvicinano giorni importanti per la Caritas italiana, il 36esimo convegno nazionale di tutte le Caritas diocesane, un convegno che sarà proprio nell'altra regione terremotata, l'Abruzzo, a Montesilvano in provincia di Pescara, dal lunedì 15 a giovedì 18 di aprile. Tra l'altro, per quanto riguarda il nostro territorio, saranno date doppiamente significative, perché contemporaneamente i vescovi della nostra regione ecclesiastica saranno in visita ad limina, come si dice, cioè alle soglie dal Papa, per fare, come viene fatto ogni 5 anni, il resoconto sull'attività, sullo stato delle comunità diocesane. Il tema di quest'anno del convegno delle Caritas diocesane è educare alla fede per essere testimoni di umanità, la fede che si rende operosa appunto per mezzo della carità. Parteciperanno i direttori, gli operatori delle 220 Caritas diocesane per questo grande appuntamento, che ha come riferimenti l'anno della fede, che è in corso fino al prossimo novembre, il decennio sull'educazione, siamo già al terzo anno ampiamente ormai, e poi gli orientamenti dati da Papa Benedetto XVI nel 40esimo della Caritas italiana appena celebrato, e poi ovviamente non si possono non considerare le prime indicazioni a parole, ma soprattutto a gesti, di Papa Francesco. Gli obiettivi dunque sono quelli di far prendere consapevolezza ai partecipanti dell'importanza di educarsi per educare a una fede che si rende operosa per mezzo della carità, come si legge nella lettera ai Galati, e fornire contenuti e indicazioni che vadano a sostanziare le attività di carità portate avanti dalle Caritas diocesane sul territorio. Il saluto iniziale lunedì 15 aprile sarà del presidente della Caritas Italiana, Monsignor Giuseppe Merisi, e poi una relazione di Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto. Nella seconda giornata i gruppi di confronto sui diversi ambiti, quindi i migranti, le famiglie, le solitudini delle persone, le dipendenze delle persone e i giovani. Nel pomeriggio la relazione del professor Leonardo Becchetti dell'Università di Tor Vergata. Lavori per gruppi ancora nella mattinata di mercoledì 17. Nel pomeriggio il presidente della Caritas Haiti, altra zona terremotata e molto violentemente terremotata, un sisma di cui ci siamo dimenticati purtroppo ben presto. Per chiudere poi giovedì 18 con due direttori di Caritas diocesane, quella di Lucca, Donatella Turri, e quella di Torino, Pierluigi Dovvis. Per concludere con l'intervento del direttore di Caritas Italiana, Monsignor Francesco Soddu, con le piste di lavoro per un cammino comune di tutte le Caritas diocesane, che si incontreranno, come detto, a Montesilvano, provincia di Pescara, dal 15 al 18 di aprile. E ovviamente un ricordo, un saluto non potrà mancare a Don Giovanni, Monsignor Giovanni Nervo, primo presidente fondatore della Caritas italiana, che appunto si è spento, come ricordiamo ancora, nella sera di giovedì 21 di marzo. Una figura importantissima per tutta la Chiesa italiana. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.